Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, il brigante Crocco è ancora imprendibile. Si chiama Carmine Donatelli Crocco, ma è conosciuto come il generale dei briganti. Ed è lui l'imprendibile capo dei capi della guerriglia meridionale. Pastore, bracciante, è stato caporale, poi disertore borbonico. Ha conosciuto il carcere di Ferdinando, è evaso, ha combattuto per Garibaldi, ma è finito nelle carceri dei Savoia. Si è sentito tradito, ha scelto la bandiera delle due Sicilie, è diventato capo di una banda così forte che il generale Borges, inviato da re Francesco da Roma, gli ha portato la nomina a generale a sua volta e ha cercato di trasformarne la banda in un vero esercito. Sappiamo com'è andata a finire. Borges e Crocco si sono divisi dopo la sconfitta di Potenza. Il generale catalano è stato fucilato dai piemontesi proprio alla fine della sua fuga verso gli Stati Pontifici. Crocco ha riorganizzato la banda, ha superato l'inverno e per tutto questo 1862, insieme ai suoi luogotenenti Caruso, Ninconanco, Totaro, Schiavone, Volinnino, Coppa, ha ricominciato la sua lotta senza quartiere tra Vulture, Irpinia e Puglia. Quotidiani di scontri, alterni risultati, costante l'orrore. Briganti fucilati, soldati massacrati, saccheggi e brutalità dalle due parti che si faticano a raccontare. Da quello che il Gazzettino è venuto a sapere, grazie ad alcune fonti anonime, in agosto c'è stata una tregua per cercare un accordo. Sul ruolo del governo è difficile fare supposizioni, ma si fatica a pensare che tale iniziativa non abbia avuto l'assenso del prefetto delle province napoletane, il generale Alessandro La Marmora. In ogni caso la trattativa è finita malissimo. Crocco pare abbia rifiutato il confino. Il suo luogotenente Ninconanco ha fatto ritrovare i corpi del delegato Poluselle e del capitano Luigi Capoduro orrendamente mutilati. Gli scontri si sono riaccesi, ma per Crocco si sono moltiplicate le disfatte. A novembre a Arapolla 200 ribelli sono stati arrestati, sono stati fucilati e i corpi sono stati bruciati. Crocco però è lontano dall'essere sconfitto, imprendibile. Oggi è solo un po' meno minaccioso, ma molti, a mezza voce, prevedono che in primavera cercherà vendetta. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.